Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ed eccoci nuovamente in diretta dopo il GR di Radio Popolare, il Breakfast Club del lunedì, con un Last Minute che mette insieme Last Minute e In Scena. Martedì e mercoledì rispettivamente, domani e domani l'altro, il 4 e il 5 giugno, per Teatri di Vita. Ricordo, in via Emilia Ponente 485, ovviamente a Bologna, alle ore 21. Beh, già abbiamo dato uno sguardo completo a Residenze di Primavera. Entriamo in un dettaglio. È un dettaglio curato, che dettaglio non è, da Mask Teatro. Il titolo è Voodoo. Per quanto riguarda l'ideazione, suono e luci, abbiamo già conosciuto Lorenzo Bazzocchi. Diamo il buongiorno a Lorenzo, nuovamente in diretta telefonica con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie della disponibilità. Allora, Voodoo ci parla appunto di questa realtà di lucida trance, come se fosse un'indicazione costante che viene consegnata quando si cerca di decifrare la lotta che sta alla base di questo inizio per affrontare, in questo caso, il palcoscenico, il pubblico, il teatro o qualsiasi realtà di insieme. Per quanto riguarda l'aspetto agonistico, esiste la trance agonistica, magari ci sono delle situazioni di parallelismo tra tutto ciò. Diamo la parola a Lorenzo, che sicuramente ci porterà all'interno di Voodoo, curatela di Mask Teatro. A te la parola, Lorenzo. Sì, diciamo che Voodoo per noi rappresenta una parola magica, in fin dei conti, come forse il voodoo è una religione che nella magia ritrova la sua forza primigenia, anche se essendo poi comunque una religione sincretica che ha trovato in diversi elementi, naturalmente quelli originari del Dahomey, dell'Africa occidentale, da cui provengono poi le popolazioni che trasferite in stato di schiavitù sino da Haiti e nei paesi del Nord America e dell'America centrale, hanno dato poi vita ad una forma di diciamo di alterazione della coscienza, che almeno in quei momenti terrificanti di stato di indigenza, di mancanza di libertà a cui furono costrette queste popolazioni, questa sorta di possibilità di ritrovare una via che permettesse loro di individuare un senso della propria vita. Quindi il voodoo è qualcosa che trascende sia la religione che la vita quotidiana, per portare in stati che potrebbero chiamarsi tranquillamente stati alterati di coscienza. Naturalmente il teatro ha sempre avuto in qualche modo una sorta di sguardo, se non laterale, però in qualche modo quasi come se fosse una sorta di ossessione, un'ossessione lontana, una nostalgia verso questo stato primigenio di, io vorrei parlare di uno stato di verità, quindi la confusione che mette sullo stesso piano la finzione, l'intrattenimento, lo spettacolo. Forse nel voodoo si ha la possibilità di tradire appunto questa sorta di contrapposizione binaria, questa sì, dicotomia tra il vero e quello che viene praticato, rappresentato sulla scena. L'artista cade in una sorta di trance? Ma cioè, diciamo, anche qui c'è tutta una letteratura che fa parte dell'antropologia, che ha studiato sia gli zar etiopi come il voodoo haitiano, e quindi anche della necessità da parte anche degli studiosi di individuare questo stato di verità dello stare all'interno di una possessione, che in fin dei conti nel voodoo è il punto centrale della ritualità che caratterizza quella religione, dove una figura, in qualche modo, naturalmente non a caso, sono sempre figure che hanno trascorso lunghi periodi di noviziato e sono degli adepti ad una sorta di avviamento a quella che è o quella che sarà la dedizione di sé, del proprio corpo, ad un ente spirituale esterno che il voodoo chiama Loa, quindi questi spiriti che entrano e nella indicazione specifica proprio di tecnica si parla quasi di montare un proprio cavallo, quindi il Loa, questo spirito, entra nella mente del posseduto e lo trascina al punto tale che gli stessi agenti, le stesse figure che vengono trascinate al termine della loro performance non ricordano e dichiarano di non ricordare nulla. Sì. Nel teatro, sì, tu hai accennato ad una lucida trance, c'è questa sorta di necessità, ma io sento che è una necessità teorica solamente. Il teatro, almeno come lo si intende da queste parti, è una forma di vita e questa forma di vita esige che ci sia una verità nel proprio stare, nel proprio agire. E voodoo in qualche modo rappresenta pienamente, almeno per quello che è una sensazione generale che trascina questa parola, quella che è poi la nostra indicazione al pubblico. Ecco. Chi vi sarà in scena, Lorenzo? In scena sarà presente Eleonora Sedioli, che performer, attrice di Mask, che in qualche modo ha superato qualsiasi indicazione di regia o di letteratura, di studi che accompagnano sempre la creazione dei lavori, per andare verso qualcosa che sente tremendamente suo e di cui a volte sento anche una sorta di preoccupazione, nel senso che questo suo darsi totalmente la porta a qualcosa che, non so, mi sembra comunque raro in quello che è l'abitudine noi che abbiamo di vedere le scene, vedere il teatro o la danza. Sarà domani e domani l'altro, martedì 4 e mercoledì 5 giugno, ovviamente 2024, alle ore 21, nella rassegna Residenze di Primavera, quindi a Teatri di Vita, Voodoo di Mask Teatro. Io ringrazio tantissimo Lorenzo Bazzocchi per questa conversazione e ci diamo appuntamento per un altro incontro. Ti auguro buona giornata. Grazie. Grazie, allora. Altrettanto, buon lavoro. Di un Busu Baju nel remix per Tosca Chocolate Elvis. Appunto, colonna sonora, se vogliamo, di questa presentazione di Voodoo. Cadere in una sorta di trance, no? Bella la citazione di aver ricordato che è anche un modo, in condizioni di grave difficoltà, alcuni deportati nella grandissima e violenta deportazione dall'Africa, arrivati ad Haiti con un sincretismo religioso, sono arrivati a questa sorta di stato alterato di trance. È un parallelismo che ovviamente è da prendere con le dovutissime proporzioni, ribadisco, ma ci sono attinenze con il transagonistico. Il transagonistico, l'agonismo è una lotta. L'agonismo, lotta e sofferenza. Poi chiaramente tutt'altra cosa, però è pur sempre una sorta di sofferenza, no? Questa caduta in trance è per facciamola finita, finiamola in fretta. L'atleta in trance agonistico, ovviamente non siamo al Moved Groove, ma vi sto parlando di una vera pallacanestro, poi adesso non seguo, quindi non vi posso fare attinenze, ma l'atleta in trance agonistico lo fermi solo neanche con un motivo fisico, lo ferma l'allenatore avversario chiamando time out. È l'unico modo per fermare un atleta in trance agonistico, perché arriva a una condizione inarrestabile. Immagino anche l'artista sul palcoscenico in una condizione che appunto nell'esibizione, nella danza, nella rappresentazione può avere questa sorta derivativa. Da Voodoo di Mask Teatro, domani e domani l'altro, la rassegna Residenze di Primavera a Teatri di Vita alle ore 21. Questo è il last minute di oggi, a tra poco con i Magazine. Un buon ascolto e una buona colazione con il Breakfast Club. Thank you.